La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, pronti per raccontarvi tutto il cinema che c'è. La Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisi, un buon weekend al cinema, ovviamente, con le proposte che vi consiglieremo, con i giochi, con i film che vincerete, quelli che vi diamo sempre quando riuscite a indovinare il nostro film misterioso della settimana, con gli ospiti di questa settimana, che sono tanti. Praticamente tutto il cinema italiano del weekend è rappresentato nella nostra Rosa Purpurea. Insomma, puntata piuttosto ricca. Allora, cominciamola subito, perché i film di cui parlare sono tanti. Sono tanti quelli che sono usciti questa settimana, ben 12. Sono tanti quelli su cui bisogna soffermarsi. E noi vogliamo cominciare dall'intrattenimento puro, se vogliamo, quello di American Assassin. So esattamente cosa farne di te. Che devo sapere di lui? È un guerriero. Il migliore che abbia incontrato. Hai visto cose orrende e ora vuoi uccidere i terroristi? Mi sbaglio. Uccidimi. Sta facendo scintille. Velocità, concentrazione, fuori dal normale. Ne ho vista di gente così. Non come lui. Ti ritieni speciale? Mai farla diventare una cosa personale. Secondo te che ci facciamo qui? Uccidiamo chi lo merita. L'eterna storia dell'uomo normale che tira fuori tutta la rabbia e tutta la cattiveria di cui è capace, il doppio volto dell'umano, se vogliamo, in American Assassin di Michael Cuesta, basato su un romanzo di grande successo, pubblicato anche in Italia peraltro, la storia di uno studente universitario, interpretato da Dylan O'Brien, che è anche un promettente atleta. Un giorno la sua fidanzata perde la vita durante un attacco terroristico e da quel momento in poi l'unico desiderio di Mitch sarà quello di vendicarsi ad alti livelli. Infatti viene assoldato dalla CIA, nella quale conoscerà un veterano della Guerra Fredda, Stan Harley, interpretato da Michael Keaton, che lo metterà sul binario di un'operazione segreta molto molto pericolosa. Boris Sollazzo in collegamento con noi, ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, cominciamo da questo American Assassin, perché c'è una riflessione sulla società americana che troveremo chiaramente più dilatata guardando al passato ma pensando all'oggi nel film Detroit di Kathryn Bigelow. Però dicevo, anche qui c'è un doppio profilo, se vogliamo. Uno che è quello che racconta appunto la trasformazione e la rabbia, e non è difficile pensare a una società, quella americana, colpita dal terrorismo dall'11 settembre in poi, che covi questo desiderio, e di generazioni che sono cresciute ormai, erano bambini quando le Torri Gemelle sono cadute e oggi sono giovani adulti che devono affrontare la vita. E quindi questo film mi pare voglia anche un po' riflettere su quello, su che cosa ha lasciato la brace ardente del World Trade Center. E poi c'è invece il côté, il filo di lettura più d'azione, un film di intrattenimento un po' più fine a se stesso. Come si mixano queste due componenti e quale secondo te prevale? Ma è un'occasione persa, ma non è un brutto film. Questo perché? Perché alla domanda che mi fai ti dico che si mixano bene sotto il profilo dell'intrattenimento, meno sotto il profilo politico. E è un ottimo film d'azione, è un'ottima spy story, e però mi viene da chiedersi per quale motivo dovresti buttare via un'idea così bella per fare solo un film di intrattenimento. Vengo a spiegarmi. Come dicevi tu, ormai chi ha visto l'11 settembre o chi è cresciuto l'11 settembre sta diventando maggiorenne, ed è diventato ormai un mito fondativo la lotta al terrorismo, un mito fondativo che ha diversi tabù visivi, cioè è difficile raccontare. Infatti non ci sono film in cui si racconta un autobus che investe delle persone, non c'erano film in cui un comando arriva dalla spiaggia e uccide decine di persone in un resort. Michael Cuesta ha il coraggio di mettere in scena qualcosa che nel nostro immaginario ha avuto una forza dirompente, anche lacerante, che non siamo riusciti a realizzare, che è stata anche poco vista, ed è un bel coraggio, e la realizza anche bene, cioè riesce a dare una grande emozione in quella scena lì. E poi però non riesce a raccontare l'evoluzione di quest'uomo che da persona normale, da persona con le sue ambizioni, lui vuole sposarsi, vuole avere successo nella vita, sogna la felicità e pensa di averla raggiunta in quel resort e vede crollare il suo mondo, come accade purtroppo a decine e decine e centinaia di persone negli ultimi anni, a causa di un atto insensato, di un atto violentissimo, di un atto arbitrario. E con la stessa arbitrarietà decide di diventare un super soldato, impara l'arabo, impara mosse di attacco nel combattimento corpo a corpo, impara a sparare, perché il terrorismo è proprio questo, cioè il terrorismo non è la guerra degli eserciti, ma è la guerra dei singoli. E si vuole rovesciare questa ottica, cioè non più il terrorista che decide di fare il kamikaze o che decide con un gruppo di pochi di ammazzare molti, ma colui che si difende, che da solo vuole ripristinare la giustizia. A livello filosofico e politico è un tema enorme e colpisce che dopo tutta questa preparazione, dopo 20-30 minuti in cui tu dici sto vedendo probabilmente un altro American Sniper, ti ritrovi invece con un film che sceglie la strada più facile, cioè quella dell'action. A un certo punto fai prima a contare le vittime della violenza inusitata di quest'uomo che vuole solo vendicarsi, e anche il personaggio che forse poteva essere il turning point di sceneggiatura e anche politico di questo film, di Michael Keaton, diventa un po' lo stereotipo in cui Michael Keaton sta entrando in questa seconda fase di carriera. Se prima era il fidanzato d'America, adesso invece è il nonno frustrato d'America in qualche modo, cioè un vecchio che è stato indurito dalla vita, in questo caso dice sempre non bisogna farne mai una questione personale, lo fa semplicemente perché è diventato un burocrate della morte, un burocrate della CIA, è uno che non va a recuperare i suoi agenti, è uno che vuole semplicemente ottenere la propria operazione, qualsiasi sia il peso da pagare, e diventa un banale film d'azione, una banale spy story fatta bene, bisogna dare atto al regista, cioè c'è un buon livello visivo, un buon livello di montaggio, sono bravi gli attori, però certo quando finisci dici avevi per le mani un soggetto straordinario, hai deciso di fare solo un buon film. La gente pensa che si tagli così una gola, succede solo nei film, questo è il punto preciso, niente rumore, niente casino. Hello Ryan, conta soltanto la missione, non contate voi. Se vi beccano sul campo siete fantasmi, non esistete, nessuno mai tornerà a prendervi. E allora, American Assassin, per cominciare la nostra rosa purpurea, adesso la viabilità, fra poco con noi Carlo Buccirosso e Vincenzo Salemme per Caccia al tesoro, fra poco. La rosa purpurea. Quanto sta il cappello di San Gennaro? Era un furto su commissione per un collezionista olandese. Mamma arriva fino a Bucarest. Londese, Amsterdam. Ma che Amsterdam? È a Cannes. Tu non vai da nessuna parte. È un poliziotto? Non sono un poliziotto. Ah, è una tour di comodo. Ci sei andato quasi vicina. Tutta colpa del suo ragazzino. Ha rubato pure il drone. Si dice drone. Che dice, aeroplani? Aeroplano, drone. Volano. Una delle battute di Caccia al tesoro è il film italiano che è partito meglio in questo weekend, forse c'era da aspettarselo, la comicità di Carlo Buccirosso e di Vincenzo Salemme per questo film che racconta appunto la storia di due spiantati, chiamiamoli così, che cercano una grazia da San Gennaro. Ma facciamo così, facciamoci raccontare la trama del film proprio da Vincenzo Salemme e da Carlo Buccirosso, intervistati dalla nostra Chiara Pizzimenti. Ho bisogno di soldi per fare operare mio nipote che ha 12 anni ed è malato di cuore, lo devo portare in America, servono 163.000 euro, per cui mi servono soldi che non ho perché sono un attore squattrinato. Per cui mi rivolgo a San Gennaro, gli dico: San Gennaro, per te una pietra preziosa del tuo enorme tesoro non è nulla, ma la posso prendere? E San Gennaro mi risponde: si può fare. In realtà a rispondere è stato il parcheggiatore che sta fuori del Duomo, ma per un effetto sonoro io credo sia stato San Gennaro, per cui ritengo di aver avuto il permesso di rubare e mi avvio a fare questo furto, ma ad ostacolarmi c'è Carlo Buccirosso nei panni di Ferdinando Faiella, che si intromette, ha sentito il discorso tra me e San Gennaro, anche a lui serve una grazia, e poi se vuoi te lo racconta lui. È un film che ha dei modelli alti, un'operazione San Gennaro, sono modelli, anche la lingua del santo era una cosa del genere. C'è un modello antico, ma c'è anche un road movie, perché andate a Torino, andate a Cannes, girate. Sì, c'è un road movie senza automobili perché pigliamo il treno e andiamo molto a piedi. è road, molto road senza automobili. Ma i riferimenti sono più che altro il tipo di commedia anni 60, che a parte Operazione San Gennaro, a cui fa riferimento però l'ovvio motivo che cerchiamo di rubare il tesoro di San Gennaro, ma proprio come tipo di struttura, tipo di comicità, d'altra parte io e Carlo Buceroso veniamo da quel tipo di scuola e Carlo Manzina ha imparato tutto con quei maestri del cinema, per cui è normale che ci siano questi riferimenti. Per mettere le mani su quei gioielli ci vorrebbero George Clooney e Brad Pitt. E io come socio del Caffè di Nanda Faiello e mia cognata Rosetta, senza offesa, abbiamo bisogno di un cavallo di Troia per arrivare al tesoro. Io un piano ce l'avrei, però non serve un cavallo. Oggi c'è bisogno di un miracolo, ce ne vorrebbero parecchi. E forse è un film sull'illusione, la speranza che forse un domani, chissà quando, qualcuno ci possa ascoltare dall'alto e rispondere sul serio, come avviene invece in maniera diciamo non veritiera nel film, e quindi questa illusione invece va avanti anche per questi presunti ladri che sono molto molto improvvisati e che pensano di aver ricevuto, di poter fare questo colpo del tesoro di San Gennaro solo per aver ricevuto un ok dall'alto, che poi non esiste. È illusorio. È illusorio, come è illusoria un po' tutta la vita, diciamo così, riguardo alla speranza che qualcuno ci possa aiutare. Ecco, secondo me è questo il senso del film, se vogliamo andare a cogliere qualche sottotitolo e qualche nota profonda nascosta. Io, avendolo letto e interpretato, ci vedo questo. Poi magari qualcun altro lo vede il film e si diverte solo, magari lo vede in maniera solo molto leggera e basta. E allora, Carlo Buccirosso, Vincenzo Salemme, al microfono di Chiara Pizzimenti, Caccia al tesoro nei cinema italiani. Giochiamo insieme perché è arrivato il momento di farvi ascoltare, farvi assaggiare la prima traccia del nostro film misterioso di oggi. E quello lì? Un lanciamissile. Accidenti. E quell'affaretto può colpire Cuba. Questa è l'intenzione. Vedi là in fondo? Lì ho dato un bacio a Denise Rogers. E allora, avete sentito, si parla di sogno in un ambiente anche un po' datato a livello audio, poi più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia, ma se siete abbastanza cinefili, oggi siamo andati sul raffinato, se siete abbastanza cinefili ad aver indovinato di che film si tratta, scriveteci alla Rosa Purpurea @radio24.it con il titolo del film e il vostro indirizzo per poter vincere uno dei due Blu-ray che vi aspettano di questo film, però vi ripeto, fra poco vi faccio ascoltare un'altra traccia, vediamo di aiutarvi anche un pochino. È il momento di passare a quello che è sicuramente, per potenza, temi trattati, regista, il film della settimana. Stiamo parlando di Detroit, il nuovo film di Kathryn Bigelow, che è uscito con gli attori di un cast non conosciuto a livello di nomi, ma veramente di grandissimo livello, che lavora su una vicenda realmente accaduta, quella delle sanguinose rivolte che sconvolsero Detroit appunto nel 1967. Era un momento di tentativo di grande emancipazione da parte soprattutto della popolazione afroamericana nelle grandi città. La rivolta era lì che covava sotto la cenere, e anzi pian pianino esplodeva. La polizia, praticamente tutta bianca, era di una violenza inaudita, e queste due scintille, nel momento in cui si incontrarono, diedero fuoco a un'intera città. Lavoravo per la sicurezza vicino alla Wisconsin e martedì notte abbiamo sentito degli spari nella zona vicino all'Algiers. C'era la polizia. Molti spari. Quando sono entrato, c'erano tre ragazzi morti. No. E li avevano uccisi appena prima che tu arrivassi. Sì. Quella che hai tu è una 38, giusto? Non sono stato io. L'operazione è un'operazione chiara, quella di raccontare un episodio del 1967, ovvero di ormai 50 anni fa, per raccontare l'oggi, per raccontare quello che sta ridiventando un problema non solo negli Stati Uniti, pensate alle banlieue parigine o a certi quartieri di Bruxelles, cioè il problema di una integrazione che non è riuscita perfettamente, soprattutto in certe zone di alcune città, di una ghettizzazione che è sempre pronta ad esplodere. Catherine Bigelow lo fa con la sua regia sempre sporca, ruvida, molta telecamera a spalla, anzi praticamente tutta, con personaggi veramente molto molto ben disegnati, soprattutto i poliziotti, le psicologie di questi poliziotti di Detroit che a un certo punto pensano di poter fare esattamente quello che vogliono e forse anche qualcosa di più. È una lezione di regia di un film che ha una durata piuttosto importante, perché sono più di 2 ore e 20 minuti, 2 ore e 23 minuti. Questo lo dico perché se proprio dobbiamo trovare un filo, un problema di tenuta drammaturgica del film, lo troviamo proprio lì, in questa durata che forse non sempre è corroborata da svolte di sceneggiatura che ti ritengano un po' più lì attaccato. Ma attenzione, a tenerti attaccato ci pensa la storia, quella con la S minuscola e quella con la S maiuscola, e una regia degli attori che sono davvero straordinari, soprattutto nella scena centrale, e dico centrale perché occupa praticamente un'ora di film, che è uno dei momenti di cinema più alto che abbiamo visto negli ultimi tempi. Boris. Verissimo, Catherine Bigelow è probabilmente a livello di muscolarità della regia, di visione, di ferocia anche espressiva e visiva, la più grande regista in questo momento vivente. Ha una capacità di usare la macchina da presa nel senso buono come una clava, non si tira mai indietro. In fondo l'abbiamo sempre visto in tutti i suoi film, la macchina da presa è un elemento interno alla storia, è un elemento che invade la storia. Qui ci ritroviamo un po' come in The Hurt Locker, non so se ricordate la scena in cui c'è il sospetto da parte di una truppa americana che un bambino iracheno possa star compiendo un attacco bomba, e in quei 25 minuti di scena si ha a un certo punto la tentazione da parte dello spettatore, che non è mai passivo nei film della Bigelow, di premere il grilletto, perché la tensione è insopportabile. E qui succede la stessa cosa con uno dei fatti che ha più ferito la coscienza d'America, il motel al Jazz, cioè una sorta di Diaz che finì molto peggio e che colpì due ragazze bianche e un gruppo di ragazzi di colore, e che fu l'esempio, appunto, come fu la Diaz, di come si possano sospendere i diritti dei singoli nel momento in cui la divisa, invece di proteggere, decide di ergersi chissà a giudice o semplicemente a torturatore, ad aguzzino. Il film, come dici tu, probabilmente è troppo lungo per ciò che si prefigge, cioè di raccontare un episodio specifico, un episodio anche statico, se vogliamo, e quindi lo sviluppo della sceneggiatura risulta in alcuni momenti macchinoso. Dall'altra parte c'è una forza espressiva, che è quella della Bigelow, che citavamo, che è eccezionale. C'è una gestione di queste facce, di questi attori bravissimi e non famosi, davvero brillante. E alla fine si va, come al solito, con Catherine Bigelow oltre l'ideologia, oltre la faziosità. Forse ha gli stessi difetti di Zero Dark Thirty e gli stessi pregi di Hurt Locker, e quindi non è il miglior film di Catherine Bigelow, ma comunque, come sempre con Catherine Bigelow, è uno dei film dell'anno. Detroit è una città in guerra, continua la violenza. Polizia dello Stato e Guardia Nazionale sono sul posto. Dichiaro lo stato d'emergenza. C'è la guerra là fuori. Distruggono la città. Polizia! Tutti a terra, non vi muovete! Do per scontato che siete tutti criminali! Questa città ha dei problemi! Ma il cambiamento sta arrivando! E questo era Detroit di Catherine Bigelow. Adesso linea alla regia. Fra poco con noi Francesca Archibugi per raccontarci Gli Sdraiati. La rosa purpurea. Ma non dovevi dormire dalla mamma stasera? Mercoledì. È mercoledì. Ah, e voi che cazzo ci fate qua? Hai scelto tu di vivere metà del tempo con me, eh? Avevo 10 anni, papà. Lascialo fare. Ti stai troppo sul collo. Devi capire che la gente cambia, cresce. Devi imparare a farti i cazzi tuoi. Io forse ti chiedo troppo poco. Rispettare un orario, pulire il cesso, raccogliere le mutande. Mamma mia, come hai... Non so se Francesca Archibugi mi conosce, ma probabilmente conosce tutti i padri di figli adolescenti. Come mi ci rivedo in questo ruolo di Claudio Visio negli Sdraiati che Francesca Archibugi ha portato al cinema in questo fine settimana, tratto dall'omonimo romanzo di Michele Serra, la storia di un giornalista, appunto Claudio Visio, molto amato, stimato, eccetera, e della sua ex moglie, della quale si occupa half time, come si dice, del figlio Tito, che avete sentito, ragazzo adolescente di quella roba lì, cioè ruvido, modi spesso sgraziati, una gran voglia di autonomia, di crescere, di non aver più rispondere niente a nessuno. E questo è un po' il plot di questa storia, che è la storia, come ripeto, di tanti di noi. Saluto Francesca Archibugi al telefono con noi. Ciao Francesca. Ciao, ciao. Ben ritrovata alla Rosa Purpurea. Allora Francesca, mi chiedevo mentre riascoltavo la clip, ma si può essere padri oggi? Cioè è una missione impossibile o in qualche modo, padri e madri ovviamente, perché tutto sommato le dinamiche non sono sempre diverse, dico, è una missione impossibile o qualcosa si può ancora fare? No, beh, insomma, diciamo che per alcuni è una missione impossibile. Per Giorgio Selva, che è il mio personaggio, è sicuramente molto difficile, ma ci tengo a dire che non è che, diciamo, è il ritratto di tutti i padri d'Italia. È bello che tu ti possa riconoscere, però che ci sono degli elementi che per tutti noi, insomma, siano riconoscibili. Però è una storia unica, è un rapporto fra un padre, Giorgio, e un figlio, Tito. Ed è anche una storia estrema per certi aspetti, proprio perché, come dicevi tu prima, il padre è molto autorevole nel mondo, un uomo riconosciuto, stimato, e non ha nessuna autorevolezza dentro casa. E poi perché si capisce che c'è stata comunque una separazione brutale e non sono stati capaci di, come dire, di gestirla, forse perché si erano amati troppo, e il figlio è rimasto figlio unico nel mezzo. Quindi è una storia, diciamo, lui si è rifugiato nei suoi amici, in questa banda di amici anche allegra, divertente, sembrano tremendi, in realtà visti uno per uno non è vero che lo sono, ecco. Francesca, una curiosità, mi è sembrato che tu abbia cambiato ottica rispetto al libro. Il libro è piuttosto squilibrato sulla visione di un padre, no? Che cerca di condannarsi autoassolvendosi, scusami il paradosso. Qui mi sembra che invece ci sia un'altezza molto più calibrata sui ragazzi. Non so se è un'impressione giusta, cioè che hai voluto togliere quello squilibrio che c'era nel libro di Michele Serra. Ma sai, il libro di Michele Serra, che comunque a me è piaciuto molto proprio perché era spietato, non trovo che si autoassolva, anzi fa un ritratto di se stesso abbastanza violento, e anche del figlio, ma anche di se stesso, cioè mette, come dire, in vetrina tutto i sentimenti anche meno nobili che ha un padre, però senza cinismo. A me era piaciuto proprio questo, che dietro, come dire, un'ironia, una malinconia, ci fosse invece una specie di atto di autoaccusa molto forte e di accusa anche, cioè che non avesse, come dire, nessun retrogusto di volemos e bene fra padre e figlio, ma invece raccontasse in modo anche aspro. Certo, però la forma stessa del romanzo, divertente e tutto con tutto quello che conosciamo della prosa di Michele Serra, era comunque una forma di lettera senza risposta di un padre a un figlio, quindi era inevitabile che mettendo il figlio in scena e tutto, costruendo, inventando una specie di romanzo familiare, si cominciassero a sentire le ragioni di tutti. Quindi Giorgio Selva, che è immanente nel romanzo di Serra, che poi non si chiama così, diventa uno dei personaggi, anche se naturalmente è il protagonista insieme a Tito, al figlio. Ecco Francesca, mi chiedevo, il ponte che bisogna cercare, insomma, in qualche modo di costruire con i figli adolescenti è anche il ponte che deve superare un ostacolo chiamato linguaggio, se vogliamo, no? C'è proprio una separazione, sono due lingue diverse, come si suol dire, quelle che parlano i ragazzi di 17, 18, 19 anni rispetto a quelle dei genitori. È anche un film su questo, c'è anche un film che affronta un pochino questo problema di lingue che si devono trovare in qualche modo in mezzo? Beh, sicuramente sì, c'è anche questo, però io credo che questo sia un problema poi tutto sommato più superficiale, che sta più, nel senso proprio stretto, letterale, più in superficie, perché nella sostanza, al di là dei cambiamenti epocali, come si chiamano, eccetera, ci sono delle cose che non cambiano. Cioè il rapporto fra padre e figlio, che sia una, come dire, una dinamica fra le generazioni e che sia uno dei motori del mondo, è sempre stato usato dalla narrativa, dalla notte dei tempi, dall'Odissea. Quindi io non credo che ci sia qualcosa di nuovo o di irripetibile in questo momento, perché i figli mandano a fanculo i genitori oppure perché hanno lo smartphone. Cioè quello che si cerca di raccontare in un modo realistico del nostro tempo, e quindi anche quello che dici tu, cioè delle difficoltà di linguaggio, comunque sostanzialmente si basa su un nucleo narrativo ancestrale. E naturalmente, come dire, non è un articolo, che è anche legittimo fare articoli su queste questioni, questa è una storia, è un racconto, cioè è un racconto per quello che proprio si intende, nel senso più semplice, più naturale. Noi facciamo, io, insieme a Francesco Piccolo, che ha scritto la sceneggiatura con me, e in parte avendo Michele sulle spalle e che ci risuona in testa, noi facciamo un racconto individuale dentro i nostri anni. È quello che poi alla fine, non so, mi piace leggere nella narrativa, e molto raramente si vede al cinema, no? Perché diciamo certi tipi di film che sono magari dei film indipendenti americani, che sono Juno, che sono I ragazzi stanno bene, sono sempre più difficili da vedere al cinema, sempre più difficili. Ho trovato particolarmente azzeccati i visi e anche gli atteggiamenti, e mi chiedo se c'è stato qualche accorgimento particolare, perché chiaramente questi ragazzi un po' interpretano anche se stessi, un po' recitano ma un po' interpretano anche se stessi, e se quindi magari sei andato a vederli vivere oltre che a fargli dei provini. A parte che, diciamo, molti ce n'ho per casa che mi vivono ahimè sul divano, però a parte questo, cioè amici, i figli, gli amici dei miei figli, eccetera, però a parte questo non ho fatto un'indagine sociologica, cioè o almeno io la faccio sempre, tutti i giorni, quando vado in metropolitana, quando mi guardo intorno, quando io guardo le persone, guardo la gente, sempre faccio una vita normale, vado al supermercato, vado, capito, magari mi vado a prendere una birra con un'amica e guardo intorno chi c'è. Quindi non c'è proprio bisogno di fare uno studio come lo potrebbe fare un cronista bravo, no? Che va lì a guardare. In fondo i registi, soprattutto i registi che scrivono, sono come dei vettori, cioè la vita ti entra dietro alla schiena, ti esce davanti e tu la devi soltanto raccontare, ti attraversa. Ecco, questo volevo cercare di dire, perché è un racconto, cioè il mio lavoro è quello di fare un racconto, e come regista ancora di più, che sono una regista fortemente tecnica, come dire, sono un incubo per le mie truppe sotto tutti i punti di vista. E invece tutta questa smania che ho di precisione, di dettaglio, eccetera, è incanalata nell'annullare la macchina da presa. Cioè io voglio che gli spettatori non si ricordino che c'è un regista, ma che sembra che la storia si stia raccontando da sola. Per questo forse quello che tu dici, i ragazzi sembra che vivano, no, è tutta messa in scena. Quella è regia, è tutta messa in scena, la scelta degli attori, la direzione degli attori, il modo con cui entrano in una stanza, il modo in cui si siedono e si levano le scarpe, quella è ricostruzione di regia. Cioè è un'illusione pensare che i ragazzi poi arrivino e sappiano fare qualcosa di loro stessi. È molto importante anche spiegare magari agli ascoltatori che quando vedono una cosa molto naturale, la cosa naturale al cinema presuppone invece una fatica che se uno mettesse la macchina su un dolly e facesse, come dire, correre una serie di nani, sarebbe anche più facile, perché ciò che stupisce comunque è più facile invece di ciò che non ti deve stupire. Posso, non so se mi sono spiegata perfettamente, direi. No, guarda, una bella sottolineatura questa, perché effettivamente molto spesso si pensa sono naturali, quindi sono così, li hanno presi dalla strada così, hanno fatto quello che sapevano fare. Sì. In realtà non è proprio così, il cinema non è proprio così. Francesca, grazie per essere stata con noi. Ricordiamo Gli Sdraiati in più di 400 cinema italiani, quindi non avete proprio problemi a trovarlo, diciamo, in sala, e insomma in bocca al lupo per questa nuova avventura. Crepi il lupo e viva il lupo. Grazie mille. Ciao Boris. Abbiamo prima il game, la nostra seconda traccia del film misterioso. Ne avete altri in magazzino? Ma non ci sono più gallette in magazzino. Non ci sono più gallette in tutta Key West. E uno dei due dovrà affrontare la distruzione nucleare senza mangiare neanche una galletta. Ecco, non ci sono più gallette, è una delle cifre di questo film. Quindi forse qui una mano a chi lo ha visto questo film l'abbiamo data. La Rosa Purpurea @radio24.it con il titolo del film e il vostro indirizzo per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray. Vi ricordo che fra poco lo sveleremo il titolo e vi faremo sapere qual è il film misterioso. Boris, sei ancora con noi? Sempre. Aggiungo ai saluti di Francesca Archibugi anche i miei. Grazie per averci raccontato anche oggi tutto il cinema che c'è. Ci sentiamo settimana prossima. Alla prossima settimana e buon cinema. Viabilità, fra poco di nuovo insieme parliamo di doppiaggio, perché c'è stato un premio molto importante che è stato dato questa settimana. Sentiremo anche i premiati, i vincitori, e poi tutto il cinema da vedere in casa, fra poco. La Rosa Purpurea. Ed eccoci qua, quarta parte della Rosa Purpurea. Come promesso ci occupiamo di doppiaggio, perché il 23 di novembre, lo scorso giovedì, a Roma è stato assegnato il Gran Premio del Doppiaggio. Sta assegnato a due vincitori che non vi sveliamo, li sentirete adesso nel servizio. È stata anche l'occasione però una due tre giorni per parlare di doppiaggio, fare un convegno su quello che è lo stato dell'arte di questa, che è stata appunto una vera e propria arte nostrana. Gli italiani sono stati da sempre i migliori doppiatori del mondo, ma è un'arte che con la globalizzazione, con la conoscenza delle lingue da parte dei giovani eccetera, e con la fruizione sempre più ampia di serie TV in originale eccetera, pian pianino ha sempre meno budget per poter lavorare in un certo modo, e questo dico io anche fortunatamente, sempre più gente che cerca il prodotto originale. Insomma, si cerca di far quadrare un pochino il cerchio. Per noi c'era Giorgio Stamatopoulos, che ci racconta un po' i vincitori e i contenuti di questo Gran Premio del Doppiaggio di Roma. Benvenuti alla nona edizione del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio. Una serata di gala ricca di riconoscimenti, quella organizzata da Ince Media con un pino insegno Mattatore, affiancato dalla giornalista Rai Monica Marangoni, che ha consacrato le migliori voci del cinema, delle serie TV e dei film di animazione 2017. Fra i premi più importanti, il miglior doppiatore protagonista, che quest'anno va a Francesco Pannofino, voce di Denzel Washington nel film Barriere. Sei qui perché oggi è il mio giorno di paga. Beh, diamine, quando è così, dammi $10. Che io sia dannato, preferisco morire e andare all'inferno. Ho doppiato questo film in condizioni fisiche disperate, cioè non avevo voce, avevo la bronchite. Ci abbiamo messo un anno luce per doppiare questo film. Grazie a tutti! Miglior doppiatrice e protagonista è Angela Baggi per il film Elle, nel quale dà la voce a Isabelle Huppert. Può darsi che siamo solo due stronze che hanno avuto culo, ma il fatto è, Kurt, che qui chi comanda sono io. Non era facile, sono entrata un po' in crisi, è stata una bella fatica. Miglior film è La La Land della 01 Distribuzione. Intanto sul palco si alternano anche artisti come Alex Britti e Alan Sorrenti, e ospiti d'eccezione come Massimo Lopez e Christian De Sica. I doppiatori hanno salvato molti cani. Durante la premiazione arriva a sorpresa anche una lettera del capo dello Stato Mattarella, che Pino Insegno legge al pubblico. Il palco dell'auditorium accoglie anche il responsabile cinema del MIBACT, Nicola Borrelli, che porta la buona novella degli ultimi passi compiuti dalla riforma del settore audiovisivo. Siamo arrivati alla fine, abbiamo pubblicato anche i primi bandi. La grande intuizione che c'è dietro la legge è quello di aumentare la qualità, il che vuol dire aumentare posti di lavoro. I premi alla carriera sono andati al direttore del doppiaggio, Piero Ottoni, e a Luciano De Ambrosis, storica voce di Sean Connery. Le torri, i palazzi, bruciateli tutti. e Camelot sopravviverà. Ho cominciato doppiando me stesso, perché ero stato scelto da Vittorio De Sica per un film. I bambini ci guardano. A vincere come miglior serie TV è Westworld di Sky Atlantic. Tu fingevi di essere un debole, piccolo moralista, stronzo, ma in realtà sei uno veramente tosto. Il premio per il miglior film d'animazione va invece a Baby Boss della 20th Century Fox. Ucciderei per un rotolino piccante al tonno adesso. Prendi qualcosa anche tu? Chi sei tu? Sono il boss. In segno, durante la serata ha voluto ricordare un altro storico interprete scomparso l'estate scorsa, Manlio De Angelis, voce italiana di tanti divi, da Alan Arkin a Joe Pesci. Ti faccio ridere, sto qua per divertirti. Come sarebbe buffo? Buffo come? Perché buffo? Le polemiche sull'usanza tutta italiana di doppiare i film stranieri sono rimaste fuori almeno da questa notte dedicata a grandi voci, anche grazie a una semplice considerazione del regista Paolo Genovese, presidente della giuria del premio. In televisione, Netflix, Sky, qualunque canale satellitare, basta un pulsante e uno può vedere il film in lingua originale con i sottotitoli. Quindi falso problema, assolutamente. Grazie a Giorgio Stamatopoulos, Gran Premio del doppiaggio. Parliamo invece di chi ha vinto il nostro film misterioso della scorsa settimana. Dormiremo tutte insieme. Siete a vostro agio? Benissimo. Grazie, madame. Bene. Le insegnate avete fatto la scuola? No, abitano in città. Se ne fanno sempre dopo aver cenato, alle 9:30. Il titolo ve l'avevamo svelato, Suspiria di Dario Argento, in una nuova versione in 4K, e invece i vincitori no, e sono David Premontini di Carpi, provincia di Modena, e Giulia Bona di Voghera, provincia di Pavia, i due nostri ascoltatori che si assicurano una copia appunto di questo Suspiria che ci facciamo raccontare in questa nuova edizione on video da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, per il 40° anniversario ecco la versione restaurata in 4K di Suspiria, passata al cinema anche all'inizio dell'anno. Uno dei capolavori del maestro del mistero Dario Argento, per chi l'ha visto lo sa, un capolavoro cromatico, lucente, eppure oscuro e perturbante. Il restauro devo dire che è veramente ottimo, ogni aspetto di luce, colore e contrasto è stato fedelmente recuperato ed esaltato dal 4K. Parte integrante del restauro tra l'altro ha anche riguardato l'audio, che ha portato al recupero addirittura di una battuta finale andata perduta. Il film è disponibile anche in cofanetto da 2 o 3 dischi con midi extra, mentre il contenuto della versione a disco singolo è solo un saluto speciale però di Dario Argento. Questo per quel che concerne il nostro game della scorsa settimana. Andiamo a dare un'occhiata a cosa c'è in televisione, a cosa abbiamo pescato. Un paio di segnalazioni. Una è Conan il Barbaro di John Milius, grandissimo regista, film del 1982, che passa lunedì 27 novembre su Paramount Channel alle 21:15. Sì, nato nel 1932 sulle pagine di Weird Tales, dalla fantasia dello scrittore Robert Howard, e rielaborato graficamente poi in una serie di fumetti Marvel, Conan il Barbaro giunge nelle sale cinematografiche nel 1982 e rappresenta l'apice del genere fantasy, che in quegli anni diciamo che incarnava gli ideali del primo mandato di Reagan, e forse questo è veramente un primo padre dei supereroi fumettistici che governano il cinema di oggi. Cinema che mostra i muscoli, che non nasconde simpatie per ideologie reazionarie come il rifiuto del modernismo, l'elogio della forza bruta e l'esaltazione mitologica, ma restano appunto grandiose le scene enfatiche che hanno garantito al film una dimensione veramente di culto per milioni di fan. Giovedì 30 novembre invece uno dei registi contemporanei più interessanti, Denis Villeneuve, in un suo film recente, Sicario, del 2015, su Rai 3 alle 21:15 in prima serata. In Sicario l'agente dell'FBI interpretato da Emily Blunt è reclutata dallo spione della CIA interpretato da Josh Brolin per aggirare la legge USA che vieta di operare sul suolo statunitense se non in presenza di un funzionario di agenzia federale. Costretta a condividere l'azione con un truce Virgilio, interpretato da un Benicio del Toro assassino, assetato di vendetta, la donna prende coscienza di una realtà decifrabile solo attraverso i codici della violenza. E la sua è veramente una discesa agli inferi, all'inferno, a suo modo in dialogo con il film successivo di Villeneuve, che è Arrival, che va nello spazio, ma comunque catta nella profondità dell'anima. Grazie a Giulio San Giorgio di Film TV. Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima settimana. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, non ci resta che il tempo di annunciarvi il film misterioso di oggi. È stato abbastanza misterioso, ma si trattava di Matinée di Joe Dante, un grandissimo omaggio al cinema e alla cinefilia. I vincitori la prossima settimana, La Rosa Purpurea, sabato alle 18 qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi.